son pulite. Ma chi l'ha detto che le ricette antiche sono più saporite? Un mondo, pieno di spine, sterrato, malato, un prato pieno di ortiche. Ma chi l'ha detto che la vittoria al più leale il mio disgusto sale? Ma chi l'ha detto che per essere amati basta essere se stessi? Ho voglia, di vomitare. La nausea mi uccide a furia di immaginare. Su questa via infinita mi ridarà la vita.